Italia in controluce. È la puntata del 25 febbraio, la prima edizione di Italia in controluce con Daniele Biacchessi. Oggi il numero unico di Andrea Ferro con le rivelazioni inedite sulle attività di Gladio della rete Stay Behind. Ottobre 1990, poco più di 20 anni fa, il presidente del Consiglio Giulio Andreotti rivela in Parlamento l'esistenza di Gladio, organizzazione paramilitare segreta concepita nel dopoguerra dalla NATO in ogni paese dell'Europa occidentale per organizzare la resistenza nel caso di un'invasione delle truppe sovietiche. In inglese si chiama Stay Behind, stare cioè dietro le linee. In italiano è Gladio per via del simbolo, una spada da doppio taglio usata dai romani. Tempi di guerra fredda, di muri e di cortine a spezzare il mondo e a sorreggere forzatamente gli equilibri internazionali. Successivamente Andreotti rende noto l'elenco dei 622 civili che in 40 anni hanno fatto parte dell'organizzazione. Giorgio Mathieu è uno di quelli. In quel momento io ero consigliere delegato al Consiglio Comunale di Nome e un mio amico Viroglio era addirittura vice sindaco. Da quel giorno si è scatenato contro di noi, contro di me, una campagna di stampa mediatica violentissima. In quel momento comunque non avevamo più credibilità, nessuno più credeva in noi come singole persone perché eravamo macinati in un ingranaggio al quale noi non potevamo opporre la minima resistenza. Ha problemi anche all'interno delle proprie famiglie perché, tranne alcuni casi in cui anche le mogli e i mariti ne erano a conoscenza, nessun altro sapeva della nostra appartenenza a questa organizzazione e quindi problemi anche da quel punto di vista, problemi sul lavoro perché o le aziende per le quali uno lavorava oppure i clienti per i quali uno lavorava cominciavano a nutrire dei fortissimi dubbi sulla lealtà, sulla correttezza delle persone nelle quali fino a quel momento avevano invece riposto fiducia. Ma perché Giulio Andreotti decide di far cadere il velo su Gladio scatenando una tempesta politica e un frastuono di dubbi e sospetti sulle reali finalità di Stay Behind? Per il generale Paolo Inzerilli, dal 1974 al 1986 al vertice dell'organizzazione, le spiegazioni si aggrovigliano. C'è un motivo che allora è stato tirato in ballo, e cioè che Andreotti volesse l'appoggio del Partito Comunista per la scalata al Quirinale, e questo dargli in pasto questa Gladio andava bene, nel senso che giustificava, questo è stato poi quello che il Partito Comunista all'epoca ha tirato fuori, giustificava il fatto che il partito non fosse riuscito mai a arrivare alla soglia del potere e quindi la colpa era della Gladio che aveva intorbidato le acque, aveva impedito ai comunisti di arrivare al potere. All'ombra di Gladio si insinua un'altra organizzazione paramilitare, la cui esistenza resterà ambigua e sfuggente. Sono i nuclei di difesa dello Stato, ne fanno parte esponente dell'estrema destra in un intreccio di connivenze oscure. Proprio a ridosso della rivelazione dell'esistenza di Gladio, indagando sulle stragi di Piazza Fontana e di Peteano, le procure di Milano e Venezia avevano scovato tracce riconducibili ad organizzazioni paramilitari, di cui forse la necessità di alzare una cortina fumogena, almeno così sospetta il generale Inzerilli. Il nucleo di difesa dello Stato era un'organizzazione che in parte copiava l'organizzazione della Gladio, di comparte perché c'era lo stesso discorso sulla lotta post-invasione eccetera eccetera, ma c'era anche la lotta politica diversamente da quello che era la Gladio bianca, come la chiamo io, nel senso che c'era la nera di cui stiamo parlando in questo momento, l'NDS, la rossa che era la Gladio rossa e noi che eravamo la Gladio bianca. Un'altra delle caratteristiche differenti è che gli NDS erano decisamente infiltrati dai neofascisti, in particolare Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale, cioè quelli che poi sono stati sciolti, ma comunque hanno partecipato parecchi dei loro membri a quella che è stata la strategia, la vera strategia della tensione, cioè la responsabilità in un sacco di stragi partendo da quella di Piazza Fontana. Ufficialmente questa struttura dipendeva dal comando della Terza Armata che allora esisteva, allora parlo anni 70. Andreotti è stato ministro della difesa per un sacco di tempo, quindi è possibile che conoscesse l'esistenza di questa struttura, ma che le indagini portassero a una struttura completamente diversa, a me ha fatto venire, virgolette, il sospetto che, avendo appurato che esisteva una struttura perfettamente pulita, potesse servire, non dico per salvare l'altra struttura, ma quantomeno per evitare che l'altra struttura venisse fuori, come poi è venuta fuori, con la responsabilità di aver partecipato veramente alla strategia della tensione. Dalla fine del 1990 Gladio diventa un marchio da associare ad ogni pagina buia e tragica del dopoguerra. Una dozzina di procure di tutta Italia scandagliano il passato dei gladiatori, vivisezionandone i rapporti con l'eversione, la mafia, la criminalità organizzata. Tutte le stragi, tutte le bombe, tutti i delitti, dico per dire lo stagno, è venuto fuori che avevamo ammazzato noi, è venuto fuori Mattei, è venuto di tutto e di più. Ok, siamo stati, non dico inquisiti, ma metà della magistratura italiana, direi proprio dalle Alpi alle Piramidi, si è precipitata a Roma a guardare i documenti, quindi omicidio in Salaco, omicidio Reina, Sicilia, Trapani, di tutto e di più. E questo in un certo senso, come posso dire, poteva far comodo a tutti, nel senso, finalmente, non essendo mai riusciti a trovare una soluzione ai problemi che c'erano stati, finalmente una soluzione c'era e quindi faceva comodo a chiunque. Recentemente Licio Gelli, gran maestro della loggia P2, ha parlato di Gladio e soprattutto dell'Anello. Così si sarebbe chiamata un'altra costola clandestina dei servizi segreti, depositaria di verità inconfessabili sulla strategia della tensione. Ancora il generale Inzerilli. Licio Gelli, a mio parere, ogni tanto racconta, cioè non ogni tanto, molto spesso ha raccontato palle. In una delle ultime ha tirato fuori che sapeva tutto della Gladio, che mi sembra leggermente folle. Sulla questione dell'anello non esiste un pezzo di carta e tutti i riferimenti sono a gente che è morta, nel senso che Tizio mi ha detto, Caio mi ha parlato, quell'altro ha accennato, ma non ce n'è uno che sia vivente. Sono tutti morti, dal primo all'ultimo. Ora, fare la storia sulla base di, non dico dicerie, ma di dichiarazioni, lui mi ha detto che, allora, secondo me è un po' difficile fare la storia in questa maniera. Ma perché in Italia, a distanza di decenni, su alcuni capitoli della storia grava ancora una cappa di mistero e di impunità, capace di intorbidire la ricerca della verità storica e processuale? In certo senso fa comodo, direi fa comodo a tutti, non appurare la verità. Era la prima edizione di Italia in Controluce, la mia voce torna oggi in diretta alle 13:30.